Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, vi faccio una domanda. State organizzando una serata romantica in compagnia del o della vostra amata? Fermatevi, perché abbiamo i consigli giusti per voi. I consigli ce li dà la dottoressa Erika Sibillo, medico esperta in musicoterapia, che ogni mercoledì viene a trovarci. Dottoressa Sibillo, buongiorno. Buongiorno, eccomi di nuovo qua con questa ricerca assolutamente interessante, devo dire anche particolarmente divertente, ma è seria perché c'è uno specialista inglese di musicoterapia, ricercatore, che insieme al suo team dell'Università di Dortmund in Germania ha voluto studiare gli effetti dei generi musicali proprio sulla relazione della coppia. E allora a questo punto non perdiamo tempo, perché immagino sarete tutti interessati di capire quale musica scegliere per la vostra serata. Allora, cominciamo per esempio con la musica jazz. La musica jazz risolleva, permette di esprimere la propria umanità e in particolare ci aiuterebbe in quello che verrà dopo la nostra serata. Stessa cosa per la musica blues, che va a ridurre la tensione e permette di liberare la profonda gioia che magari abbiamo per una serata che noi aspettiamo magari da tanto tempo. Volete invece trovare coraggio, esprimere tutta la vostra energia? Benissimo, musica pop, che va ad eccitare il nostro sistema nervoso, portando quindi ad un comportamento assolutamente dinamico. Ma allora, se parliamo di comportamento dinamico, non possiamo non pensare alla musica rock. Quale musica è più energizzante, risveglia le nostre passioni, libera le nostre tensioni e oltretutto serve anche a ridurre l'effetto magari di spiacevoli rumori che ci sono nell'ambiente circostante, insomma serve un po' da isolamento. La musica New Age, per esempio, per superare ansia, agitazione, oppure mettete un ritmo latino per favorire la sintonia con il vostro partner, ha anche un effetto pare disinibitorio, cioè toglie un pochettino tutte quelle tensioni che noi possiamo avere nell'affrontare una serata che, ripeto, magari stiamo attendendo da tanto tempo. Ora, questa ricerca è abbastanza particolare, abbastanza divertente, come dicevo all'inizio, perché va a suggerire alcuni esempi musicali. Ricordatevi sempre però che ognuno di noi ha sempre la propria musica personale, che può essere legata a un ricordo, che può essere legata a un momento particolarmente romantico, mentre seduto su una panchina osservava la luna e le stelle. Certo che la musica rock, piuttosto che ritmi tribali, non siano l'ideale per una cena romantica, questo non ci vuole certo. È intuitivo. Esattamente, però non disdegnate alcuni suggerimenti. Una buona musica messa di sottofondo in una buona serata sicuramente vi aiuterà nelle relazioni con l'altra persona, parlandole piuttosto che relazionandovi nel migliore dei modi. Insomma, Galeotta fu la musica, dottoressa Sibillo. Direi proprio di sì, mi sa che io e lei, signora Nicoletta, poi raccoglieremo tutti i frutti di ciò che abbiamo suggerito. Speriamo, dottoressa Sibillo. Intanto io la ringrazio e la saluto, buona giornata e buona musica. Grazie a tutti voi. Andiamo invece a sentire adesso i titoli del nostro sommario. Incontinenza, se la nascondi fai il suo gioco, parliamone insieme per darle scacco matto. Saccarina, aspartame e fruttosio, cosa sono? Ritorno dalle vacanze. Oggi parliamo di un disturbo tanto diffuso quanto taciuto, l'incontinenza. E imparare a parlarne significa già cominciare a curarle, ed è quello che faremo oggi, declinando il problema sia al maschile che al femminile. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Carone, direttore della struttura complessa di neurourologia dell'ospedale CTO Maria Adelaide di Torino. Professore, buongiorno. Buongiorno signora Carbone, buongiorno. In linea abbiamo anche da Padova il professor Vincenzo Ficarra, associato della clinica urologica di Padova. Buongiorno professore, anche a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Insieme ai nostri esperti affronteremo il problema dal punto di vista clinico. Loro ci aiuteranno ad individuare i fattori di rischio, i campanelli d'allarme, ci aggiorneranno sulle terapie oggi a disposizione, ma oggi potremo anche avvalerci dei consigli della dottoressa Antonella Biroli, responsabile della riabilitazione neurologica e disfunzione autonoma all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Dottoressa, buongiorno e benvenuta.

quando si è a dieta, anche se tali sostanze sono nate principalmente per i diabetici. Spesso poi l'abitudine di utilizzarli per dolcificare il caffè, ad esempio, rimane anche quando la dieta è terminata. Ma che cosa sono questi dolcificanti? È vero che il loro uso eccessivo può avere un effetto dannoso per il nostro organismo? Proveremo a rispondere a tutte queste domande con l'aiuto del dottor Fatati. Bentornato, dottore. Buongiorno. Nutrizionista responsabile del servizio dietetico dell'azienda ospedaliera di Terni. Allora, dottor Fatati, si mette il dolcificante spesso per risparmiare calorie, ma ne vale davvero la pena? I dolcificanti nascono, gli edulcoranti o dolcificanti, che è la stessa cosa, soprattutto questi di sintesi, nascono proprio per farci risparmiare calorie, perché il loro potere calorico è veramente basso, per alcuni addirittura nullo. Il problema è che in realtà noi usiamo il dolcificante nel caffè qualche volta dopo aver terminato un pasto particolarmente abbondante, allora è chiaro che questo uso è veramente inutile. E sicuramente un'altra distinzione che va fatta è quella che utilizzando l'edulcorante non è che per forza bisogna dolcificare tanto, perché l'edulcorante ha in sé una grande forza, quella di dolcificare almeno 200 o da 200 volte in su le cose in più rispetto allo zucchero semplice. Se noi manteniamo l'abitudine al gusto dolce, bene, le diete le riusciamo a fare male, quindi possono avere alla fine anche un effetto diseducativo, per cui si possono usare, io sono tra quelli che penso che non hanno una grande tossicità se usati con raziocinio, hanno una nulla tossicità se usati nel modo giusto, però se non usati nel modo giusto possono avere anche una tossicità indotta diversa, che non è quella farmacologica ma è quella di far sì che i nostri consigli alimentari poi non vengano mai seguiti. Sì, quindi è un po' una trappola in cui ci cadiamo dentro. Può diventare una trappola, esatto. Senza scendere troppo nel tecnico, ci spiega un po' le differenze tra dolcificanti naturali e quelli di sintesi? Se sono differenze importanti per noi che li aggiungiamo al caffè. Certo, quelli di sintesi sono soprattutto l'aspartame e la saccarina i più diffusi, sono dei dolcificanti che non si trovano così in natura, vengono sintetizzati in laboratorio, hanno un potere calorico bassissimo, addirittura l'aspartame ha 4 calorie per grammo di aspartame, ma dolcifica 200 volte più dello zucchero semplice, sì. Quindi un grammo di aspartame è pari a 200 grammi di zucchero come potere dolcificante, quindi ci rendiamo conto che il quantitativo che ne usiamo è minimale. La saccarina addirittura da 450 a 600 volte dolcifica di più rispetto allo zucchero semplice, quindi usiamo ancora dosaggi più bassi. I dolcificanti invece naturali sono quelli come il fruttosio, che si trova normalmente in natura e che ha delle caratteristiche completamente diverse, nel senso che è uno zucchero che segue però un metabolismo diverso rispetto a quello dello zucchero da cucina, ha un indice glicemico più basso e ha un potere dolcificante solo leggermente maggiore, perché è un terzo di più, il 33% in più, quindi diciamo come potere dolcificante in realtà è come risparmio di zucchero, non è che facciamo un grande risparmio, nel senso se metto 10 grammi di zucchero ne metterò 7, 8 per avere la stessa, per dolcificare lo stesso, ma non è, io penso che non sia quell'uno o due grammi in più che facciano la differenza, fanno la differenza, con un rischio in realtà, che tutto ciò che è fruttosio ha un metabolismo completamente diverso e poi in un qualche modo seguire la via epatica della sintesi dei trigliceridi, quindi dare un'ipertrigliceridemia, che sul rischio cardiovascolare penso che sia forse più grave che utilizzare lo zucchero da cucina, per cui personalmente io dico ma forse se dobbiamo usare un po' meno zucchero è sufficiente abituarsi ad usarne leggermente di meno, invece dei due cucchiaini, mettiamone un cucchiaino nel caffè. Poi ci si fa l'abitudine, esatto. Io ho provato e ci si fa l'abitudine, perché siamo un po' troppo così abituati al sapore dolce. Dottore, ci scrive Ivan, i dolcificanti non sono così innocui, tanto che a tutela dei consumatori è stata stabilita una dose giornaliera accettabile per ogni sostanza dolcificante. Dottor Fatati, in realtà anche per lo zucchero, no? L'OMS raccomanda una quantità che non deve superare il 10% delle calorie. Per tutti i dolcificanti c'è una... c'è una quota diciamo di tollerabilità, che effettivamente fino a qualche anno fa era praticamente impossibile raggiungere, perché non c'era questa grandissima diffusione dei dolcificanti chimici. Oggi abbiamo dei dolcificanti un po' in tutte, in una serie di alimenti che vanno dalle bibite agli yogurt, addirittura li troviamo dentro i cereali della mattina, quindi il rischio di arrivare verso la o nei pressi della quota limite è un rischio reale, però c'è da dire che i limiti che sono stati posti dall'autorità, soprattutto dall'autorità europea sulla sicurezza alimentare, sono rischi che in fisiologia, ossia nell'individuo normale, non si riescono mai a raggiungere. Diverso il discorso degli stessi limiti che sono stati posti un po' per quanti zuccheri semplici dobbiamo consumare, no? Lì il limite è più facile da superare, anche perché è un limite che va sempre rapportato al nostro peso, no? E quindi è un limite un po', diciamo, un pochettino più variabile. Se posso aggiungere una cosa, in realtà tutti, ritornando sui dolcificanti chimici, tutti gli studi di tossicità sono stati fatti fino ad oggi sui topi, e io sono uno di quelli che pensa che tra l'uomo e il topo c'è una bella differenza, e soprattutto tra colonie selezionate utilizzando il dolcificante dalla vita fetale in poi, e io spero che a nessuno di noi venga in mente di fare un esperimento analogo nell'uomo, no? Certo. Io rimango dell'idea che nei primi anni di vita e soprattutto nelle donne in gravidanza queste cose vadano evitate senza nessun problema. Chiudiamo per rispondere a Pierluigi da Roma, che ci scrive: che effetto ha sull'intestino il dolcificante? Può avere un effetto particolare, professore? Dottor Fatati? Alcuni dolcificanti come il sorbitolo possono sicuramente dare la diarrea, questo è possibile, sì. Altrimenti sull'intestino grandi la maggior parte dei dolcificanti non danno grandi alterazioni o non danno nemmeno un aumento della mobilità, della motilità gastrica. Tutti i dolcificanti danno invece una risposta insulinica. Il rischio del dolcificante è che in realtà dia una, se il nostro organismo risponde come se avessimo messo qualcosa di dolce in bocca, si scende un pochettino più di insulina, poi però non si trova lo zucchero da lamponare, no? Sì. E quindi il rischio è che poi ci venga una sensazione di fame, perché i valori glicemici tendono leggermente ad abbassarsi. Quindi il rischio del dolcificante a volte potrebbe essere in realtà proprio quello per cui noi sia di peggiorare la situazione per cui noi lo utilizziamo. Noi utilizziamo il dolcificante per introdurre meno calorie, mettiamo un dolcificante che comunque non tampona il quantitativo di insulina che viene secreto, la glicemia tende a scendere, abbiamo più sensazione di fame, quindi andiamo a mangiare di più invece che di meno. Questo è il rischio reale. Alessandra ci scrive: e se si sostituisce del tutto lo zucchero e compagnia bella con il miele, naturalmente artigianale, magari biologico, controindicazioni? Sul miele controindicazioni non ce ne sono, ma dottor Fatati, non ce ne sono, assolutamente no. Il miele pressa poco come potere calorico, siamo lì, quindi io non il miele è una sostanza assolutamente naturale, non ha controindicazioni, ha avuto un grandissimo successo in passato, perché quando lo zucchero costava tanto i nostri agricoltori sapevano come far produrre miele dalle api, e quindi era un sostituto. Se noi prendiamo tutti gli anziani, usavano molto più il miele che lo zucchero, no? Poi noi abbiamo perso un po' questa abitudine, perché lo zucchero l'abbiamo trovato con molta facilità. Certo. Questo è normale. Oggi si torna al miele come sostanza naturale, però se ritorno al miele come sostanza naturale vuol dire che io invece di un cucchiaino di zucchero metto 3 cucchiaini di miele, il gioco non vale la candela. Quindi anche per il miele è un'ottima alternativa, ma moderazione, non dobbiamo esagerare. Esatto. Dottor Fatati, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, anche un po' dolce. Ringrazio io, buona giornata anche a voi, è dolce per tutti, speriamo. Speriamo di sì. E allora adesso andiamo sulle strade, sulle autostrade, poi torniamo di nuovo insieme per imparare a correggere o a mascherare le borse sotto gli occhi. Una missione impossibile? Non voglio dirvi di più, restate con noi e le scoprirete. Strade in diretta. Un

Ci sono anche studi in corso con l'utilizzo di varie sostanze, ad esempio la fosfatidilcolina, che può essere iniettata direttamente in questo grasso fibroso e eliminarlo in gran parte. Sono ancora degli studi che devono essere avvalorati, soprattutto per le conseguenze che in teoria potrebbero dare, ma che finora non ne hanno dati, e tra qualche anno quindi questo potrebbe essere un rimedio alternativo alla blefaroplastica, cioè alla chirurgia. Quindi correggere il difetto senza ricorrere al bisturi. Sì. Mentre per le occhiaie, oltre a utilizzare il correttore, cosa si può fare? Per le occhiaie invece bisogna migliorare il più possibile il microcircolo, i vasi sanguigni. Allora, oltre ad una dieta ricca di flavonoidi e quindi tanti frutti di bosco, tra l'altro mi viene in mente adesso una notizia recentissima degli ultimi giorni, il pomodoro mirtillo o il mirtil pomodoro, che è questo pomodoro ricco di isoflavoni, come sono ricchi anche i mirtilli. Ecco, gli isoflavoni importantissimi, si sta dando grande importanza in questi giorni, sono utilissimi per migliorare la microcircolazione. E allora ben vengano degli integratori ricchi di flavonoidi o anche creme ricche, sì, di flavonoidi locali. Una notizia nuovissima è che c'è in corso una sperimentazione che prevede delle microiniezioni di acido ialuronico in questi primi strati, perché si è scoperto che l'acido ialuronico riesce in maniera molto buona a migliorare il microcircolo. Però sono studi in corso, quando potranno essere disponibili i risultati? E quindi... Io credo anche tra meno di un anno. Va bene, allora grazie professor Di Pietro per i consigli, per le buone notizie. Intanto noi proveremo a mettere in pratica i suoi consigli e speriamo di attenuare queste borse e occhiaie che rendono lo sguardo così affaticato e poco fresco. Professore. Allora, buona giornata. Anche a lei. A tutti. Buona giornata, grazie a lei. È tempo di tornare, ma è ritornata da noi la dottoressa Fabia Schoss, come ogni mercoledì. Dottoressa Schoss, buongiorno. Buongiorno. Psicoterapeuta ed esperta in tecniche di meditazione. Dottoressa Schoss, con lei siamo stati un po' in vacanza. In queste vacanze abbiamo imparato da lei e insieme a tanti nostri ospiti a prenderci un po' cura di noi. E il problema è che le vacanze finiscono. E tocca ritornare, torna anche lei, ma insomma questo non ci rende sicuramente meno duro il ritorno alla quotidianità. Non vorremmo mandare in fumo tutto il lavoro, tutto il benessere che abbiamo sapientemente accumulato durante le nostre vacanze, ma cambiare tocca, è faticoso. Sì, però ogni quindi, tanto... Anche se noi siamo riposati, abbiamo fatto una bella vacanza e siamo rigenerati, ritornare ci lascia sempre un po' disorientati. Cambiare ritmo, riprendere il vecchio ritmo, esattamente come quando siamo partiti, insomma, cioè, il cambiamento ha sempre... Cioè, dobbiamo essere pazienti con noi stessi. Insomma, c'è quello stordimento iniziale. Sì. Ciascuno di noi dice, ma sarò capace ancora di incastrare tutto in quel puzzle di accompagnare i bambini a scuola, andare al lavoro, andare a trovare la suocera, ritornare alla palestra e... Ce la faremo, dottoressa Schoss. Certamente. E poi ci sono anche però degli aspetti positivi, perché se abbiamo fatto una bella vacanza, noi sicuramente abbiamo qualche buona idea, abbiamo qualcosa di nuovo dentro di noi che metteremo in gioco nella nostra vita in città. E poi c'è anche un altro aspetto positivo, che è quello di ritrovare le nostre cose, la nostra casa, di ritrovarci nel nostro ambiente abituale, insomma, di stare bene dove abbiamo tutte le comodità. E poi a poco si riprende il passo. Insomma, buon ritorno a casa, dottoressa Schoss. Ce la possiamo fare, vero? Certo. Dottoressa Schoss, io la ringrazio per essere stata con noi, l'aspettiamo naturalmente, noi andiamo in onda tutti i giorni, ci saranno sicuramente occasioni ricordiamo di mantenere uno spazio di libertà anche durante l'anno quotidiano, direi, o mi allargo troppo? Beh, quotidiano sarebbe il massimo. 5 minuti al giorno, lasciamoci con questa promessa. Per chi torna, 5 minuti al giorno, cerchiamo di dedicarli tutti a noi stessi. Bravo. E in quei 5 minuti possiamo fare tutto quello che ci viene in mente. Possiamo leggere, possiamo stare in silenzio, possiamo guardare dalla nostra finestra, possiamo, non lo so, scivolare nella vasca da bagno e dire non voglio sentire nessuno, bambini che chiamano, cani che entrano in bagno come fa il mio. 5 minuti. Cercate di dirci se riuscite a farlo e con la dottoressa Schoss vi premieremo, giusto? Certo. Gratificandovi con altri consigli per continuare a insistere nel vostro progetto. Quindi 5 minuti, mi raccomando, non lasciateveli strappare da nessuno. Intanto, dottoressa Schoss, io la saluto. Arrivederci. Mi prenderò 5 minuti subito dopo la trasmissione, tutti per me. Brava. Farà così anche lei? Certo. Va bene. E allora per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere restati in nostra compagnia. Vi do appuntamento a domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Vi aspetto. Buona giornata da Nicoletta Carbone.